Quel portico qua che va dentro sarebbe la via del ghetto, che chiamano, perché tanti tanti anni fa. Questo è uno dei negozi più vecchi e esiste ancora. Manfredi, vieni! Qua è il papà, la mamma del ragazzo e poi adesso va avanti ancora. Vieni che ti intervistano qua, vieni! No, Dai, che dopo il mettere sul giornale! Questo è uno dei... E dei negozi di frutta e verdura, qua in piazza, in 100 metri, 150 metri, ce ne erano tre, non uno. Uno in piazza e uno un po' in Via Libertà. E un po' qua vicini, tre negozi di frutta e verdura, tanti anni fa. Adesso penso che nel 70 quei due là via non c'erano già più. Qua c'era un calzolaio che mi ricordo io ancora, l'ho visto anch'io questo calzolaio, e qua una macelleria, anche vecchia. Questa qua macelleria spagnoli era nata e dopo fra porti e via via fino a che l'hanno chiusa. Questa qua. E andiamo verso la piazza adesso.